valigia sul letto, quella di un lungo viaggio. E tu senza di niente hai trovato il coraggio. Con l'orgoglio ferito di chi poi si rivede, ma quando t'arrabbi sei ancora più bello. E così su due piedi io sarei liquidato. Una vittima sai, un bilancio sbagliato. Se un uomo tradisce, tradisce a metà. Per cinque minuti io non ne è più qua. Se mi lasci non va, se mi lasci non va, se mi lasci non va, se mi lasci non va. Mi sembra un po' caro il prezzo che adesso ti sto per pagare. Se mi lasci non va, se mi lasci non va, se mi lasci non va, con quella valigia, tutto il nostro passato, non ci posso andare. Ti ha posto ogni cosa e parliamone un po'. Io di errori ne faccio. E colpe ne ho, ma quello che conta tra il dire e il fare è saper andar via, a saper ritornare. Se mi lasci non va, se mi lasci non vale, se mi lasci non va, se mi lasci non vale. Non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare. Se mi lasci non va, se mi lasci non va, se mi lasci non va, dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Se mi lasci non va, se mi lasci non va, se mi lasci non va, dentro quella valigia.